ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, Gianluca. Altra puntata, altra intervista. Questa volta è il turno di una formazione veronese che ci presenta il suo primo disco. A voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, siamo gli Onira. Con gli Onira sarà puntata dedicata al prog rock degli anni 70. Come prima canzone abbiamo sentito It Happened Today dei Curved Air, dal primo disco Air Conditioning del 1970. Formazione inglese ancora attiva che negli anni 70 ha scritto una pagina di storia grazie ad un sound particolare e alla presenza carismatica della cantante Sonia Cristina. Che ne dite? Ma il brano è molto bello, io non lo conoscevo, ho avuto modo di apprezzarlo stasera qui, ma mi è piaciuto molto. Gli Onira si formano nel 2010 grazie ad uno di voi che ha pensato di riunire alcuni musicisti di esperienza per fare musica progressive. Come vi siete formati e perché questo nome? Onira significa in greco sogni. Mi serviva un nome che rappresentasse la nostra musica, che spazia sia a livello stilistico che tematico, che fosse bello ed evocativo. E ci siamo formati grazie a Filippo, che in realtà era il creatore del progetto iniziale, poi ha unito questa band di musicisti e poi abbiamo registrato, il resto è andato da sé, diciamo. Proseguiamo il nostro viaggio nel prog con i Quatermass, trio durato un solo disco, ha lasciato comunque una traccia importante tra i cultori grazie alla copertina ad un sound da power trio in cui spiccava il bassista John Gustafson, con esperienze musicali nel beat degli anni 60 e poi futuro hard stuff e Roxy Music. La Quatermass del 1970 e brano Black Sheep of the Family. Dicevamo, durati pochissimo, ma il loro disco è amatissimo dai musicisti rock per il taglio decisamente potente ed incisivo. Che ne dite? Beh, io ti dico che questo disco qua è un disco a cui sono legatissimo, perché me lo faceva ascoltare mio zio, che ero proprio piccolo. Ecco. E tra l'altro è stata fatta una cover dei Rainbow di questo. Certo. E alla batteria c'era Mick Underwood, che è stato un mio idolo, perché poi è andato a suonare con Gillan, l'ho seguito moltissimo e niente, quindi sfondi una porta aperta. Ben sapendo che al momento non avete realizzato esibizioni, vi chiedo se avete in cantiere la possibilità che i brani del disco possano essere anche presentati live. Ma sicuramente, però vogliamo farlo in un modo giusto e scegliere i canali giusti, perciò stiamo pensando di farlo la prossima estate, fare poche date mirate ma buone, e nel frattempo stiamo lavorando del materiale nuovo. Bene. Questa prima parte finisce con i Renaissance, band progressiva passata per moltissimi cambiamenti di line-up. Li sentiamo nella primissima formazione con gli ex Yardbirds, Jim McCarty e Keith Relf, per un album omonimo dalle forti tinte classicheggianti, come dimostra il brano Island. The sun.